Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Trasferimenti in altre regioni bloccati da 2 settimane, CARA di Gradisca Saturo con 700 migranti. Chi non vi trova posto resta in strada e cerca riparo sotto tende di fortuna. La sindaca Tomasinski non è un problema di ordine pubblico, è un problema sociale. 82 vittime della strada nel 2021, mai così tanti da 7 anni, mentre nel resto d'Italia i numeri scendono. La polizia stradale non ha dubbi, è aumentata la distrazione, la colpa è del cellulare. Soccorso nella notte un uomo precipitato in un canalone a Tramonte di Sotto, ricerche proseguite tutta la notte, tuttora in corso invece a Chions per trovare un 85enne persosi ieri pomeriggio. 2 milioni per riqualificare Villa Toppani a Udine, a farne la casa della Friulanità, è un finanziamento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, altri 2 milioni per digitalizzare i musei cittadini, 4 milioni anche per ciascuno degli altri capoluoghi. Ultimo giorno del Trieste Science Plus Fiction Festival è la giornata degli incontri con l'astronauta Franco Malerba, in serata poi al Politeama Rossetti la cerimonia di premiazione. Per lo sport in Serie C, Triestina oggi in campo a Busto Arsizio contro la Pro Patria, Pordenone a Lignano contro Lecco. Nel basket in A1 Pallacanestro Trieste in casa contro Sassari, in A2 Udine riceve Bologna e Cividale sarà impegnato a 100. Domenica 6 novembre 2022, sono le 8:32 minuti. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni con voi stamattina Eva Ciuc e Antonio Cagliazza. E vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, ecco le temperature registrate alle 8. A Trieste 11 gradi, il mare è poco mosso e ha una temperatura di 19 gradi e mezzo. A Gorizia e a Udine 7, a Pordenone 6. 6 e 5, a Tolmezzo 7, a Forni di Sopra 3, a Sappada meno 2, Tarvisio meno 1, Piancavallo 1 grado, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 0, a Grado 11, a Lignano 13 e mezzo, temperatura del mare di 17 gradi. Le previsioni, il cielo sereno, poco nuvoloso, con aumento delle velature da ovest del pomeriggio sera, di mattina soffierà bora moderata sulla costa in successiva attenuazione. All'interno del CARA di Gradisca i migranti fanno collette per consentire a chi sta fuori di comprare tende, ripari di fortuna vista la saturazione di gran parte delle strutture d'accoglienza. È una delle storie che arrivano dalla cittadina isontina, da dove i trasferimenti verso altre località italiane sono bloccati. Da ormai oltre 2 settimane i migranti che stanno sovraffollando il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Gradisca di Isonzo non vengono più trasferiti fuori regione. Ne ha dato notizia al prefetto di Gorizia, Ricciardi, all'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza, riunito su sollecito della sindaca di Gradisca di Isonzo, Tomasinsic, per fare il punto sull'emergenza. Se i trasferimenti sono interrotti, non si ferma invece il flusso di arrivi, mentre le strutture di accoglienza sono e restano piene, oltre ogni limite. Sfiorano il migliaio di presenze, quasi 700 sono al CARA, per la gran parte dentro a tende. A chi ancora non trova posto non resta che la strada, ad oggi una ventina di persone che si sono organizzate con delle altre tende fuori dal centro di accoglienza, fa sapere la sindaca Tomasinsic, rimarcando che non vi è un problema di sicurezza né di ordine pubblico, ma che resta grande il problema sociale, di qui l'appello a non essere lasciata sola e alla regione perché faccia pressing sul Ministero dell'Interno per far ripartire i trasferimenti. A preoccupare l'arrivo dell'inverno, in queste ore intanto si stanno muovendo anche Caritas, parrocchie, volontariato e terzo settore dell'Isontino, mobilitati dall'arcivescovo di Gorizia Redaelli, cui il prefetto Ricciardi ha chiesto aiuto per trovare una soluzione temporanea. A inizio settimana, conferma il direttore della Caritas Nucera, è previsto un incontro insieme agli enti locali per individuare i luoghi dove dare rifugio ai migranti. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Mentre in Italia gli incidenti stradali diminuiscono e cala il tasso di mortalità sulle strade, il Friuli Venezia Giulia va nella direzione opposta. La polizia stradale mette in campo servizi di osservazione anche con agenti in borghese, ma evidentemente non basta. La responsabilità, sostengono alla Polstrada, è il più delle volte dello smartphone. Sono state 82 le vittime della strada in Friuli Venezia Giulia nel 2021, dato che include pedoni e ciclisti, mai così tanti da 7 anni, controtendenza rispetto al resto d'Italia dove i numeri scendono. Si tratta del tasso di mortalità stradale più alto del paese, con 6,8 decessi per 100.000 abitanti, un livello che in Italia non si raggiunge dal 2010. Solo 4 stati europei hanno un tasso di mortalità stradale superiore alla nostra regione: Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Romania. In Friuli Venezia Giulia la maggioranza dei decessi avviene sulla rete ordinaria, solo 1 su 5 perde la vita in autostrada, dove però non circolano pedoni e ciclisti, che rappresentano una fetta rilevante dei morti. Gli ultimi 2 hanno perso la vita mercoledì sera in A4 nei pressi di Villesse. Altri incidenti gravi sono avvenuti nei giorni scorsi. Alla polizia stradale non hanno dubbi, è aumentata la distrazione e responsabile numero 1 è il cellulare. In autostrada, per esempio, si notano molti più tamponamenti di una volta. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E a proposito di incidenti stradali, un uomo di mezza età è stato soccorso ieri pomeriggio dopo essere rimasto vittima di un incidente lungo la statale 52 a Villa Santina. Aveva perso il controllo della macchina che stava guidando ed era andato a finire contro il guardrail. Dopo l'impatto piuttosto violento, l'uomo era riuscito a uscire autonomamente dalla vettura per poi essere colto da malore e accasciarsi. Le persone che lo hanno visto riverso a terra hanno chiamato aiuto e la centrale del 112 ha inviato sul posto un'ambulanza da Tolmezzo e l'elisoccorso, che l'ha trasportato all'ospedale di Udine. Sono continuate per tutta la notte le ricerche dell'uomo di 85 anni, cittadino veneto, che si è smarrito nel pomeriggio di ieri a Chions. In serata è stata allestita di fronte alla chiesa di San Giorgio la base operativa per una 50 delle persone coinvolte nella ricerca. In campo i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile con 10 unità cinofile e i cani molecolari. Stamattina saranno operativi anche i droni e l'elicottero dei vigili del fuoco del Veneto e la squadra fluviale dei pompieri di Pordenone. Intervento di soccorso nella notte sulle montagne di Forni dei Tramonti di Sotto, dove un uomo era caduto in un canalone per una 20 metri. L'uomo è stato individuato dal soccorso alpino e preso in carico dai sanitari del 118, che in elicottero l'hanno trasportato all'ospedale di Udine. Ha riportato diverse lesioni. Resta ancora chiusa la strada comunale nel tratto compreso tra Stermizza e Barza, a Savogna, dove si è verificato un distacco di massi finiti sulla carreggiata. Ieri la strada è stata liberata dai massi, ma persiste il rischio di crollo del costone. Quanto prima sarà eseguito un sopralluogo. 16 milioni di fondi europei per la cultura, 4 milioni per ciascuna delle città capoluogo. Udine utilizzerà metà del suo finanziamento per Villa Toppani. Di riqualificare Villa Toppani e farne casa della friulanità, a Udine se ne parla da più di 10 anni. Nel frattempo è passata di proprietà dalla provincia al comune. Ora Palazzo d'Aronco rilancia l'idea di farne un sito dove conoscere le peculiarità della lingua, dei costumi e delle tradizioni del Friuli con la certezza di un finanziamento europeo. 2 milioni a coprire parte della spesa per il recupero della dimora Liberty, a cui si aggiungono altri 2 milioni per potenziare la digitalizzazione dei musei cittadini e per eventi di promozione e partecipazione culturale. 4 milioni in tutto a Udine, ma ne arriveranno altri 4 in ciascuno degli ex capoluoghi di provincia. 16 milioni. I finanziamenti arriveranno da Bruxelles. Si tratta del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale per il periodo 2021-2027, una dotazione strutturale che ha la finalità di ridurre il divario tra diversi territori. Saranno integrati da risorse regionali fino ad arrivare a 500 milioni per il settennato in questione. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Parte alle 9.30 da Piazza 20 Settembre a Pordenone la 16ª edizione della Maratonina dei Borghi Città di Pordenone, competizione internazionale certificata FIDAL e lunga 21 chilometri che tocca i luoghi più suggestivi della città. Mentre si punta moltissimo su una decina di top runner africani, sono stati istituiti premi anche per gli atleti italiani. Sulle strade interessate dalla gara la viabilità sarà interdetta dalle 9 alle 12.30. Si concluderà con la tradizionale cerimonia cerimonia di premiazione al Politeama Rossetti alle 20, il Trieste Science Plus Fiction Festival, che chiude con la proiezione di Incredible But True di Quentin Dupieux. Attesissimo l'ospite dell'ultima giornata è Franco Malerba, il primo astronauta italiano che nel 1992 volò nello spazio come ingegnere di bordo dello shuttle Atlantis, che portava nello spazio il laboratorio Eureka e il satellite Tetred italiano. Alle 12 presenterà il suo nuovo libro Il cibo nello spazio al DoubleTree by Hilton di Trieste, mentre alle 16.30 al Miela terrà la conferenza dal titolo Il ritorno alla Luna e la New Space Economy. Lo sport oggi per la 12ª giornata di Serie C, la Triestina va a Busto Arsizio per incontrare la Pro Patria. Fischio d'inizio alle 14.30. Il Pordenone gioca sul campo di casa di Lignano contro il Lecco alle 17.30 e a questo proposito sentiamo il mister dei Neroverdi, Domenico De Carlo. Sarà un bel match dove ci saranno pochi spazi, quindi bisogna far girare la palla velocemente, dobbiamo metterci tanta energia e tanta intensità, perché per trovare le imbucate c'è bisogno proprio veramente di alzare il ritmo. Quello che abbiamo visto a Crema è che quando si gioca di squadra i singoli migliorano anche le prestazioni e chiaramente poi arrivano anche i risultati. Mi è piaciuto moltissimo questo aiutarsi della squadra, questo sacrificarsi uno per l'altro, e quando succede questa è una squadra che ha grande qualità, vengono fuori poi le giocate, vengono fuori le situazioni positive. Mi aspetto anche domani questo tipo di atteggiamento, quindi alla lunga la differenza la dovranno fare l'intensità di gioco, l'aggressività che dobbiamo avere noi nei confronti loro, e sono convinto che alla lunga metteremo le nostre qualità, saranno superiori a quelle del Lecco. Quindi la partita va vinta in questo modo. Basket in A1, Pallacanestro Trieste riceve Dinamo Sassari, si gioca alle 18.30. In A2, United Eagles Basketball Cividale gioca in trasferta a Cento alle 18, mentre Old Wild West Udine gioca sul parquet di casa contro la Fortitudo Bologna alle 18.30. Basket femminile, Delser Udine gioca in trasferta a Costa Masnaga in provincia di Lecco, la quinta d'andata del girone nord di serie A2 femminile. Le Volpi di coach Massimo Riga affrontano la locale Limonta SD Basket Costa Palla 2 alle 18. Volley nella serie A femminile, Itas Ceccarelli Martignacco va a giocare contro la capolista Unione Volley Montecchio Maggiore alle 17. In A2 maschile il Volley Prata incontra fuori casa la Libertas Brianza alle 18. Nella terza giornata di andata del campionato di serie A1 maschile, la Pallanuoto Trieste ieri pomeriggio ha giocato ad Ostia contro Distretti Ecologici Roma. Trieste ha vinto per 7-6, gli elabardati hanno sofferto non poco per aver ragione di un avversario particolarmente ostico. Partita difficilissima e una vittoria molto molto importante, ha commentato l'allenatore Daniele Bettini a fine match. Sabato prossimo alla Bruno Bianchi di Trieste sarà di scena Savona. Pallamano in A2, Trieste è stata battuta in trasferta per 21-23 dalla Sparer Eppan di Appiano in Alto Adige, interrompendo la striscia positiva di 3 successi. La compagnia Arcieri Trieste organizza la 9ª edizione del torneo indoor Città di Trieste, Memorial Dino Badio, gara interregionale di tiro con l'arco, che si terrà alla Polisportiva di Opicina in via degli Alpini alle 9. Atto finale per il progetto di animazione turistica in Val Meduna alle 16.30 nella sede della Proloco di Tramonti di Sotto. Ci sarà un incontro con Folco Terzani, autore del bestseller La fine è il mio inizio, nel quale dialoga con il padre Tiziano Terzani. Verso le 12.15 Terzani pianterà un albero nella zona del centro polifunzionale di Tramonti di Sopra. La rassegna stampa. Il Piccolo di Trieste mette in prima una foto della manifestazione svoltasi ieri a Roma, in Piazza per la Pace. L'argomento di apertura è però il commercio che cambia. I saldi, le vendite online, i mercati rionali, l'home food, le regole in arrivo per il post-pandemia, si legge nel sommario. L'argomento è sviluppato all'interno in 2 pagine, vediamo nei titoli. Sconti liberi nei negozi e vendite online più facili, così cambia il commercio. Approvato dalla Giunta regionale il disegno di legge che riordina il settore. Ora l'iter va in aula, l'assessore Bini dice semplificare, le categorie commentano, modifiche necessarie. In economia, smart working fisso al venerdì, le generali spengono le luci, l'intesa stabilisce un giorno preciso per il lavoro da remoto contro il caro energia sui 3 garantiti. All'interno delle pagine di Trieste il resoconto dei funerali del professor Carlo Venza, storico leader del movimento anarchico e del circolo Germinal, mancato giovedì. Il Messaggero Veneto, edizione di Udine, il titolo principale, il mese dell'ingorgo fiscale, lo Stato incassa 69 miliardi dall'IVA all'acconto IRPEF, dalle addizionali alle ritenute, tutte le scadenze di novembre. La fotonotizia, cuore nuovo per madre e figlia a 33 anni di distanza. È stato l'ultimo intervento, prima del pensionamento, del cardiochirurgo Ugolino Livi, direttore del reparto a Udine, aveva operato la madre anni fa, dunque a Padova. La cronaca, leggiamo i titoletti in prima pagina: dopo il maltempo, allagamenti del nuovo ospedale, poi frana ad Arta Terme, a Lignano via ai lavori dopo la mareggiata e poi furto a casa di Wallace. L'inserto del Gazzettino dedicato al Friuli: arrivano i rinforzi contro i predoni, da alcune settimane sono partite le razzie in tutta la regione, questo è il titolo principale. In taglio alto il centrodestra si ricompatta, Fedriga non si tocca, l'ipotesi spaccature è nata dopo che Moratti ha lasciato la coalizione. La fotonotizia: 4 milioni in arrivo per Villa Toppani e gli altri temi, i danni del maltempo, gli incidenti stradali e ciclocross, un quarto in quinto posto per due friulani agli europei in Belgio. Edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo, l'apertura delle pagine del capoluogo. Visite guidate in autobus a Gorizia e Nova Gorizia. Prime corse a dicembre, coinvolti APT e Nomago. Nelle pagine successive, il premio San Rocco 2022 è stato assegnato a Luca Caburlotto, attuale direttore della Biblioteca Statale Isontina, per il suo impegno, dice la motivazione, appunto nella salvaguardia dell'istituzione culturale che guida. Il riconoscimento è conferito dal Centro per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni popolari di Borgo San Rocco. Vediamo l'apertura di Monfalcone: esposto depositato in procura per un nuovo caso di legionella. Un uomo di 73 anni, ricoverato da quasi 4 mesi, chiede di far luce sul contagio. Nasce sul Carso e precisamente a Doberdò del Lago il miglior miele d'Italia. Lo ha deciso la giuria del Salone del Gusto di Torino, che ha assegnato il primo premio all'apicoltore Silvan Ferfolia. Il Messaggero di Pordenone, stessa apertura su tasse e tributi, stessa fotonotizia dell'edizione di Udine del trapianto del cuore a madre e figlia. I titoli di cronaca invece sono diversi, si riparla del furto a casa di Wallace, poi materna di San Quirino da sistemare, ci pensano i militari USA della base, poi anziano va a Chions con la badante, sparisce, ricerche fino a notte. A fondo pagina Elena e Spartaco, i primi sposi della Casa al Sole, 20 anni del progetto inclusivo a Pordenone. Il capocronaca nelle pagine interne: 13 postazioni del mercato sfrattate dalla pista da pattinaggio, risale la tensione col comune anche sulle date straordinarie domenicali che rischiano di saltare. Uno sguardo al Gazzettino di Pordenone: i due titoli principali sono gli stessi dell'edizione di Udine che abbiamo già letto. La fotonotizia invece è dedicata a Casa Serena, De Filè torna il sorriso in casa di riposo. Gli altri titoli in prima pagina: a Pordenone torna la protesta delle bancarelle e soprintendenza al rapporto dal prefetto sul tema del fotovoltaico. Approda a Cividale, Sciamani, la rassegna dedicata agli scrittori che attraverso i libri liberano le anime dei lettori, accompagnandoli lungo strade nuove in altri tempi e con altre genti. Sei gli autori dei sei appuntamenti che si terranno a partire da oggi alle 17.30 presso il Cortil di Firmine a Cividale. Il protagonista di oggi è Francesco Boer. Si intitola Perle musicali in villa, la rassegna dell'Associazione Musica Pura, che sarà inaugurata dal quartetto EOS al ridotto del Teatro Verdi di Pordenone alle 17.30. Il programma parte dal tardo romanticismo di Brahms e Weber e arriva fino a Pasolini grazie alla nuova composizione dedicata al poeta da Renato Miani su commissione di Musica Pura e dell'Associazione Chamber Music di Trieste, partner dell'evento che riproporrà il concerto domani al Conservatorio Tartini di Trieste. La Chiesa Luterana di Largo Panfili a Trieste ospita la seconda delle quattro meditazioni d'organo del Festival Organistico Internazionale dedicate a Bach. Alle 17 suona l'organista olandese Sander van der Houten, titolare del grande famoso strumento di Den Haag. Riprende il 20° ciclo di concerti da organo nella Cattedrale di Udine, organizzati dall'Accademia Organistica Udinese. Alle 17, il primo dei tre concerti, si esibiranno Carlo Torlontano e Francesco Di Lernia, rispettivamente al Corno delle Alpi e all'organo. Rapido sguardo ai programmi della sede. Alla radio, in occasione del centenario di nascita di Elio Bartolini e Ugo Amodeo, alle 9.15 Mozart in viaggio verso Praga, un originale radiofonico di Bartolini per la regia di Amodeo. In televisione, 9.15 Rai 3, il filmato Nuovo Cinema Buie di Alessio Bozzer. Concludiamo questa edizione alle 8.50, l'assistenza tecnica è di Mauro Cumina, collaborato in redazione Daniela Sossi. Noi ci risentiamo alle 12.15, grazie della cortese attenzione. Da Eva Ciuc e da Antonio Cajazza, buona domenica e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.